Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. L'Unione Europea deve contribuire a rafforzare la nostra sicurezza. A parlare così il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk da Riga. Tusk ha annunciato che il vertice europeo previsto per il 12 febbraio a Bruxelles sarà dedicato alla lotta contro il terrorismo dopo l'assalto armato compiuto mercoledì contro la redazione parigina del settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Tusk ha anche annunciato che alla plenaria di Strasburgo la prossima settimana accelererà i lavori sul registro dei passeggeri europeo, il cosiddetto PNR, che può aiutare a controllare i viaggi dei sospetti. L'uccisione di 12 persone nella redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo continua a dominare le vicende europee. Incontrando stamani qui a Riga il governo lettone, che dal 1 gennaio ha assunto la presidenza di turno dell'Unione, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il vertice informale dei 28, previsto a Bruxelles a metà febbraio, sarà dedicato anche alla lotta al terrorismo e non solo a temi economici come previsto. L'attentato parigino potrebbe portare a nuove forme di collaborazione tra i Paesi membri nel campo della sicurezza, settore che rimane competenza nazionale nonostante la caduta delle frontiere. Ieri il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato che a breve presenterà nuove proposte per rafforzare il coordinamento tra Europol e i Paesi membri. Dei temi relativi alla sicurezza parleranno prossimamente i ministri degli esteri a metà gennaio e i ministri degli interni a fine gennaio. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Riga. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha parlato anche delle tensioni con la Russia. L'Unione europea non ha una politica contro la Russia, ha detto, ma una politica mirata a garantire il rispetto della pace e delle frontiere in Europa. È una politica che esige, continuerà ad esigere sacrifici e il prezzo da pagare è spesso più alto per paesi come la Lettonia, ma non ci sono alternative. Le parole di Tusk al termine di un incontro con il premier lettone Laimdota Straujuma. La Commissione europea gioca la carta della trasparenza sui negoziati che riguardano l'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti con gli Stati Uniti. L'Europa cerca di accelerare sui negoziati per l'accordo di libero scambio tra Washington e Bruxelles e soprattutto tenta, attraverso una operazione di trasparenza, di avvicinare e ammorbidire i cittadini del vecchio continente. La Commissione ha pubblicato le sue proposte per il testo che sta negoziando con gli Stati Uniti, 24 capitoli divisi in 3 macro aree, semplificati attraverso schede che evidenziano i punti deboli e gli obiettivi già raggiunti. La partita però resta difficile e va chiusa entro la fine dell'anno, prima delle presidenziali americane del 2016. Le proteste e i movimenti che le portano avanti si moltiplicano in Europa, meno negli Stati Uniti, forse perché in America sono convinti di avere molto più da guadagnare che da perdere. Sul tavolo la liberalizzazione di molti settori, l'abbattimento delle tariffe, minori costi per i consumatori e maggiore scelta, e poi nuove regole che possano disciplinare questi flussi. Si lavora, ma gli interessi dell'una e dell'altra parte restano distanti, mentre sempre più cittadini europei si chiedono perché mai non si possa utilizzare la sede dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per appianare le differenze, evitando così di innervosire paesi come Cina, India, Brasile, che non resteranno a guardare se e quando l'accordo arriverà a conclusione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo italiano ha fatto sapere che la spesa nel 2014 supera i target della Commissione europea. In una nota di Palazzo Chigi si legge che alla scadenza del 31 dicembre la spesa dei fondi strutturali europei ha raggiunto e superato i target comunitari, avendo certificato spese superiori a 33 miliardi di euro, 1,9 in più dell'ammontare in scadenza. Sui fondi europei si è evitato il rischio di perdere 2 miliardi, grande lavoro di tutti, ha twittato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. Al 31 dicembre 2014 ha aggiunto: investiti in un anno 7,9 miliardi di fondi UE, più del previsto. Nel 2015 la sfida per i residui 13 miliardi. Il Sud può ripartire. Ed è tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.